Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il carcere è un forte imponente. L'acqua ci arriva praticamente alle ginocchia. Centinaia di persone in fila come noi, con scatole, valigie e quant'altro, a reggerle nel miglior modo possibile per non farle bagnare. Dopo ore entriamo, camminiamo per dei lunghi corridoi fino ad una stanza dove i carcerati stanno dietro ai vetri. Una volta arrivata da lui, al posto del ragazzone rubicondo che conoscevo, mi trovai un uomo magrissimo, quasi senza denti, praticamente calvo. Non sono riuscita a fare altro che scoppiare a piangere. Mi chiamo Maria Isabel, sono argentina, vivo a Roma da 22 anni, lavoro in una società di consulenza aziendale. Che alla fine ognuno di noi nella propria vita è toccato da piccole o grandi tragedie. Cioè ognuno ha sperimentato cosa significa perdere qualcuno all'improvviso, o magari perderlo dopo periodi lunghissimi e interminabili di sofferenza. E quel tipo di lutto che è devastante, che è terribile e che ti cambia la vita, fa proprio parte della vita. C'è qualcosa di più grande di noi, qualcosa che magari non comprendiamo, ma che accade. E alla lunga troviamo un modo per accertarlo, per comprenderlo, quasi per perdonarlo. E poi ci sono altre tragedie, che proprio perché non sono previste nel corredo genetico di ognuno di noi, sono intollerabili. E sono quelle in cui di solito entra il lato peggiore degli uomini. Quello che fa fare cose che nessuno ha il coraggio di nominare, ma che esistono e che sono esistite. Quando al processo di Norimberga Adolf Eichmann disse che quello che lui aveva fatto per trasportare milioni di persone su treni bestiame verso i campi di sterminio era stato solo il suo lavoro. Ecco, quello è un buon esempio di come si possono fare cose orribili e indicibili, accettandole, come se fosse una parte concepibile del vivere umano. A quelle categorie di tragedie, quelle che popolano dei mostri, le vite di chi le vive, credo facciano parte le sparizioni improvvise di persone care, di componenti della propria famiglia, di figli, mogli, di mariti. E il fatto che una persona che ogni giorno ci sta vicino, da un momento all'altro, sparisca perché portata via da chissà chi, è qualcosa che la nostra mente non credo riesca a concepire. In Italia c'è una trasmissione televisiva che da anni ormai, forse 20 anni, si regge solo su quella cosa lì, sul fatto di cercare persone scomparse, che per lo più però sono scomparse di proposito, perché loro volevano sparire e non perché qualcuno li ha fatti sparire. E forse sarà per questo che ho sempre considerato quel programma una specie di intrusione nella vita di qualcuno. Però immaginate per un secondo che quelli che in teoria dovrebbero proteggervi, il vostro governo, il vostro esercito, le forze dell'ordine, entrino in casa vostra e portino via vostro marito, vostro figlio o vostro fratello. Immaginate di non sapere più niente di lui, di non sapere a chi rivolgervi, di non avere più sue notizie e di sentire voci che parlano di torture, di abusi, di omicidi legalizzati. Immaginate di essere in Sud America alla fine degli anni 70. Se riuscite ad immaginarlo, probabilmente non avete bisogno di sentire la storia di oggi. Se invece non ci riuscite, alzate il volume della radio. Quando abbiamo iniziato a pensare a questo programma, sin dalla primavera scorsa, e poi quando hanno cominciato ad arrivare i racconti che fanno di fatto questo programma, i vostri racconti, noi ci immaginavamo, chiaramente, io insieme a Tiziano, a Stefano, ci immaginavamo che sarebbero arrivati dei racconti più carichi di significato pubblico, e non solo privato, di altri. E questa cosa è già successa con il racconto di Edith, di credo un paio di settimane fa, in cui raccontava della fuga sua e della sua famiglia da Budapest durante gli scontri coi sovietici. E quello era veramente un esempio di come la grande storia entri nella storia personale. E quindi se senti uno alla radio che dice: perché non mi scrivete una storia di una pagina, di un episodio della vostra vita che racconta meglio di altri la vostra vita? È chiaro che se hai vissuto quello probabilmente ti viene immediatamente in testa, no? È la prima cosa a cui pensi. E poi però se ascoltate questo programma vi renderete conto che è veramente un puzzle di storie che vanno da piccole storie personali a racconti della vita dei nonni, storie d'amore, storie d'infanzia, storie della vostra vita, ovviamente. E noi quindi ci immaginavamo che sarebbero arrivati racconti più pregni di altri. Quando però ci siamo trovati di fronte al racconto di Maria Isabel, tutti quanti lo abbiamo letto e abbiamo pensato come raccontare una storia così, come trovare il modo, una storia tra l'altro che più o meno ormai si conosce, come trovare il modo soprattutto per non essere stucchevoli e per non andare oltre a quello che semplicemente già questa storia racconta. E abbiamo pensato che il modo fosse semplicemente raccontare la storia che Maria Isabel ci aveva mandato e che è questa qui. Tante volte penso che forse sarebbe stato meglio se io fossi stata più piccola. Magari avrei capito poco o niente. O non essere stata così curiosa e volere sempre sapere e conoscere tutto quello che non so. Ma avevo 13 anni e capivo. Mio fratello Norbert era il mio idolo. Dopo la maturità, Norbert si iscrisse all'università in un'altra provincia. Da noi in Argentina la famiglia si disperde presto. Si cresce prima se si smamma subito. Una notte fui svegliata da uno che mi afferrava per i capelli e mi tirava su a forza dal letto. Lui era uno della polizia speciale del nostro piccolo paese, che avendo pochi abitanti, tutti sapevamo chi erano, quelli della polizia speciale. E ci salutavano con la mano e anche con un bel ciao ogni volta che ci si incontrava per la strada. Quella sera però fu diverso. Niente ciao, niente mano alzata. Entrò senza invito e si mise a lavorare in casa nostra. Penso che nello stesso modo svegliarono anche tutti gli altri. Una volta sveglia mi accorsi di quello che stavano combinando. Rovistavano casa, da cima a fondo. E una cosa è certa, mio fratello era molto politicizzato. Di quella notte non ricordo più nulla. Sono nata a Colón in Argentina, provincia di Entre Ríos, è un paesino, beh, a questo punto è una città balneare perché è ubicata sulla riva del fiume Uruguay, al limite con la Repubblica Orientale dell'Uruguay. Viene molta gente in vacanze, è divertente d'estate, è molto molto triste durante l'inverno. La fortuna nostra è stata quella di vivere in un piccolo paese. Certe cose erano troppo eclatanti, non era conveniente farle. A Buenos Aires invece se ti spariva un vicino di casa non lo notavi, perché manco lo conoscevi. Mio fratello fu preso e incarcerato. Non so se Norbert fosse un sovversivo. Quello che so è che lui stava cercando di fare riaprire la mensa dell'università, che era stata chiusa. E quando si è giovani e anticonformisti, questo è il minimo che si possa chiedere a un'università, riaprire una mensa. E lui girava con un amico in motorino intorno all'edificio dell'università facendo esplodere dei mortaretti. Dopo 6 mesi di carcere fu dichiarato ufficialmente libero, ma trattenuto comunque, perché a quel tempo la moda era quella lì: tenerli là dentro per rinfrescargli le idee, magari per cambiargliele le idee, con metodi molto innovativi. Non so né in che modo né come la mamma riuscì a scoprire dove l'avevano portato, a Santa Fe, e lei appena fu possibile ci andò a trovarlo. In qualche modo eravamo contenti che non fosse finito nel carcere di Coronda, perché già si sapeva che da lì non uscivano vivi o ne uscivano pazzi. Arrivata alla prigione, mamma si trovò con un cartello appeso alla porta del carcere che diceva: «Tutti i detenuti del Potere Esecutivo Nazionale sono stati trasferiti a Resistencia, nel Chaco, nord-est dell'Argentina». Non so quanti chilometri fossero da casa, ricordo solo le 14 ore di treno dopo le 3 di autobus, perché la prima volta a Resistencia ci andai anch'io con lei. Era il 1978, c'erano i mondiali di calcio da vincere in qualsiasi modo. Si favano lo stesso perché c'era, che ne so, penso un 70% della popolazione che non aveva idea o non voleva sapere quello che stava succedendo. Noi che lo avevamo in famiglia il problema, lo sapevamo più o meno, insomma. Avevamo la possibilità di vederlo 3 giorni alla settimana, mezz'ora al giorno. Era giugno e inizia l'inverno, e nel Chaco inizia pure la pioggia. Il carcere è un forte imponente, l'acqua ci arrivava praticamente alle ginocchia. Centinaia di persone in fila, come noi, con scatole, valigie e quant'altro, a reggerle nel miglior modo possibile per non farle bagnare. Dopo ore entriamo e camminiamo per dei lunghi corridoi fino ad una stanza dove i carcerati stanno dietro a dei vetri. Una volta arrivata da lui, al posto del ragazzone rubicondo che conoscevo, mi trovai un uomo magrissimo, quasi senza denti e praticamente calvo. E lì non sono riuscito a fare altro che scoppiare a piangere. Lui mi sorrideva e dal tubo di acciaio che serviva per comunicare ho sentito la sua voce che, con calma, quella che ancora non erano riusciti a togliergli, mi diceva: «Dai, gringa, va tutto bene, su, guardami, parlami». E insisteva perché lo guardassi. Penso che volesse in quel momento vedermi diventare una donna. Abbiamo parlato per un po', poi mi alzai e feci entrare mamma. Il secondo giorno non sono andata, il terzo sì. Volevo dirgli che l'avrei aspettato a casa. Mi guardò e rispose con un semplice «contaci». Gli avevano tolto la possibilità di scrivere, di ricevere libri e di giocare a calcio nel cortile. Il resto di quello che ha vissuto e sopportato e subito lì dentro non ce l'ha detto, mai. Nel viaggio di ritorno con la mamma non parlammo di questo, parlammo di quanto fosse forte la squadra argentina di calcio, che era riuscita a vincere contro il Perù 6-0. Mamma continuava ad andare a trovare Norbert, io non ci tornai più. Poi per ogni Pasqua e per ogni Natale il potere esecutivo nazionale liberava alcuni di questi prigionieri politici e tante volte per noi la speranza diventava poi un dolore. Finché un giorno, senza nessuna spiegazione, sul foglio degli uomini liberati è apparso il nome di mio fratello. Ci siamo precipitati davanti al carcere, abbiamo aspettato ore, giorni, sul marciapiede davanti all'uscita, finché è apparso lui, un sopravvissuto, e ancora oggi non mi ricordo nemmeno che giorno fosse. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quando ho sentito per la prima volta la parola desaparecido se ero un bambino e pensavo che fosse una faccenda tipo quei bambini di paese che escono di casa e perdono la strada per tornare. Un po' come Cappuccetto Rosso, Pollicino. E che bisognava stare attenti a dove si andava perché a volte ci si poteva smarrire. Quindi mi immaginavo che ci fossero dei paesi nel Sud America dove le mamme erano un po' distratte, non si occupavano abbastanza dei loro figli piccoli e non li controllavano mentre erano fuori a giocare. E quindi ogni tanto qualcuno spariva. Poi speravo sempre che tornassero, che li ritrovassero, ma intanto pensavo che un pochettino se l'erano cercata anche loro, no? Ecco, ero piccolo ed ero ignorante. Queste, diciamo, sono le mie scusanti. La storia di Maria Isabel mi ha riportato alla memoria il momento in cui mi sono accorto di quanto fossi lontano dalla verità dei fatti, quando lo scoprii e quando feci delle ricerche. E ora, guardando su internet, in due parole si ha il quadro a disposizione, ma vi assicuro che un tempo non era così facile. Desaparecido significa letteralmente persone fatte scomparire, in spagnolo, e si riferisce alle persone che furono arrestate per motivi politici o anche semplicemente accusate di avere compiuto attività antigovernative, dalla polizia dei regimi militari argentino, cileno e di altri paesi dell'America Latina, persone delle quali spesso si sono perse le tracce per sempre. Gli arresti e i sequestri avvenivano spesso di notte e in genere senza testimoni. Così come segreto rimaneva tutto quello che seguiva. Le autorità non fornivano ai familiari alcuna informazione e gli stessi capi di imputazione erano solitamente molto vaghi. Della maggioranza dei desaparecidos non si è saputo effettivamente più nulla e solo dopo la caduta del regime militare e il ritorno della democrazia fu possibile sapere che molti di loro furono detenuti in campi di concentramento e in centri di detenzione clandestini, spesso torturati e assassinati. Con l'occultamento delle salme in fosse comuni oppure gettati nell'Oceano Atlantico o nel Rio della Plata, con quelli che vennero chiamati i voli della morte. Il rapimento politico, la sparizione forzata, è stato riconosciuto come crimine contro l'umanità dalla risoluzione delle Nazioni Unite il 18 dicembre del 1992. Per quanto riguarda l'Argentina, si ritiene che tra il 1976 e il 1983, sotto il regime della giunta militare, sono scomparsi circa 30.000 dissidenti, o almeno sospettati tali. Ecco, quando senti storie come queste, non riesci ad immaginarti che dietro ci siano delle persone vere, sia tra le vittime, sia tra i carnefici. È un po' come se la mente si rifiutasse di accettarlo, e su questo non c'è molto da dire. Però alla fine io sono almeno felice che Norbert sia tornato a casa.

a livello politico che bloccano, no? Sì, però, economico anche, immagino. Sì, sì, sì. Economicamente penso che si stava un po' meglio allora, credo. Adesso è un periodo particolare. Senti, quando è che ci torni? Hai già in mente per l'anno prossimo. Senti, invece poi ti lascio andare davvero, perché immaginarti in bagno in ufficio mi dispiace molto. Radio 24 l'ascolti tutta, l'ascolti a pezzi, ascolti. L'ascolto da Alessandro Milan alle 7:20 fino a un po' di La Fanzara, l'ascolto. Vabbè, tutto il giorno proprio, 24 tutto ore al giorno. Giorno. Isabelle, senti, io ti ringrazio davvero ancora tanto per il tuo racconto e la tua telefonata. Ringrazio te, Matteo. Ciao, ti auguro ogni bene, grazie mille, buona giornata. Ciao. Voi siete qui. Isabelle è una bellissima donna, si vede nella foto che ci ha mandato e che trovate sempre sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È una foto in bianco e nero quella che ci ha mandato, per cui potrebbe essere di ieri come di 10 anni fa. Non perché, nel senso che il bianco e nero dà sempre quella patina lì, che non sai mai se è stata scattata oggi o invece 50 anni fa. Ha i capelli castani, corti, ha su un maglione di lana, quindi probabilmente è inverno. Ha una fede al dito, quindi probabilmente ancora era sposata. E soprattutto ha un bel sorriso. Per la serie, se volete saperne di più, nel senso che di solito in questa seconda parte del programma, quello dopo la borsa, io cerco di raccontare una cosa che sia simile ma non sia esattamente la stessa che abbiamo trattato nella prima parte, cioè nel racconto dell'ascoltatore che ci ha inviato la sua storia. In questo caso però ho pensato che fosse invece proprio giusto rimanere qui e continuare a raccontare dei pezzi di questa storia che delle volte si dà per scontata, ma non è nemmeno così vero, non è nemmeno così giusto probabilmente, perché poi col passare degli anni molte persone o se la dimenticano o semplicemente non lo sanno. E c'è un libro che è abbastanza conosciuto, che è pubblicato in Italia da Feltrinelli, che si chiama Il Volo. L'autore si chiama Orazio Verbinski ed è un giornalista che è stato tra quelli che più si è accanito e ha deciso di raccontare questa storia, che è la storia dei Desaparecidos, una storia per cui moltissimi dei responsabili sono ancora in libertà in Argentina e in diverse parti del mondo oggi. Questo libro è semplicemente una lunga intervista, sono le rivelazioni fatte dall'unico militare che di fatto ha raccontato quello che ha visto e quello che è successo, per cui è la visione dall'interno degli avvenimenti di quell'epoca. Questo militare si chiama Adolfo Scilingo e credo, ne parlavo prima con Tiziano, che sia veramente accaduto così, che forse in metropolitana o per strada questo Scilingo un giorno ha avvicinato Orazio Verbinski, lo ha riconosciuto e gli ha detto: lei è il giornalista che si occupa? Lui gli ha risposto: sì. Bene, allora ho delle cose da raccontarle. Da lì nasce questo libro che si chiama Al Volo e che racconta, prende il titolo proprio da quelli che vennero definiti i voli della morte, per cui i voli in cui gran parte dei desaparecidos, dopo essere stati sedati, venivano gettati nell'oceano o nel Rio della Plata. La cosa, diciamo, per quanto riguarda questo Adolfo Scilingo, che è ancora vivo e che è, diciamo, quello che, da cui si sanno queste cose, adesso sta scontando la sua pena in una prigione spagnola, dove c'è un limite massimo legale, massimo di anni che si possono scontare, che sono 30, perché lui in realtà sarebbe stato condannato a 640 anni di carcere per crimini contro l'umanità, appunto. In questo passaggio dell'intervista Verbinski chiede esattamente a Scilingo che cosa fossero i voli della morte. Lo chiamavamo il volo, era normale, anche se ora sembra qualcosa di aberrante. Ma all'interno dello schema, inseriti nella guerra che stavamo combattendo, questo era uno dei metodi. Per piacere, mi può descrivere il passo successivo? Sì, siamo andati all'aeroporto militare, siamo entrati dalla parte posteriore. E lì ho saputo che l'aereo sul quale avremmo fatto il volo non sarebbe stato un Electra della Marina, ma uno Skyvan della prefettura. Ma siccome non c'entravamo tutti, il gruppo che doveva volare è stato diviso in due. Il mio era un ruolo secondario, non so perché mi incaricarono del primo volo. Dopodiché i sovversivi, che sembravano degli zombie, furono caricati e imbarcati sull'aereo. Lei mi ha chiesto cosa succedeva sugli aerei. Ecco, una volta che l'aereo si allontanava da terra, il medico che era a bordo somministrava loro una seconda dose, un calmante molto potente. e si addormentavano completamente. Cosa facevate quando i prigionieri si addormentavano? Questa è una domanda veramente morbosa. Sinceramente morboso è ciò che avete fatto voi. Ecco, non vorrei che qualcuno potesse pensare che provo un qualche piacere a raccontare queste cose. Vede, ci sono quattro cose che mi fanno stare male. I due voli che ho fatto, la persona che ho visto torturare e il ricordo del rumore delle catene e dei ceppi che venivano messi ai prigionieri. Li ho visti appena un paio di volte, però non posso dimenticare quel rumore. No, non voglio parlarne, mi lasci andare. Comunque, una volta che avevano perso i sensi, venivano spogliati e quando il comandante, a seconda di dove si trovava l'aereo, dava l'ordine, si apriva lo sportello e venivano gettati di sotto, nudi, uno a uno. Ecco, questa è la storia. È macabra, ma è reale. E nessuno la può smentire. Non riesco a dimenticare l'immagine dei corpi nudi sistemati uno sopra l'altro, nel corridoio dell'aereo, come in un film sul nazismo. Venivano adoperati aerei Skyvan della prefettura ed Electra della Marina, come le dicevo. Nello Skyvan venivano gettati dallo sportello posteriore, che si apre verso il basso. È uno sportellone molto grande, ma senza posizioni intermedie. O è chiuso o è aperto. Rimane perciò in una posizione aperta. Il sottufficiale teneva giù con il piede una specie di porta oscillante per lasciare uno spazio di 40 centimetri verso il vuoto. Da lì cominciavano subito dopo a scaricare i sovversivi. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Quando ho cominciato a chiedere con insistenza questa cosa di avere una mappa su cui tracciare tutte le storie che ci arrivavano, intendevo esattamente una cosa simile a questa, cioè al fatto che ad esempio la bandierina di oggi della storia di Isabel dovrebbe essere piantata un po' a Roma e un po' in Argentina, ovviamente, visto che però lei di fatto è italiana ormai, credo che abbia senso proprio che sia piantata semplicemente lì, dove la troverete andando sul sito di Radio24, la pagina di Voi Siete Qui, perché raccontare tante storie, ogni giorno una diversa, nell'arco di una stagione di un programma radiofonico, credo abbia senso non tanto perché ogni storia riguarda una piccola parte di noi, anche quella di oggi, credo, anche se sembra così lontana, ma soprattutto credo che raccontare tante storie così diverse abbia qualcosa a che fare con il mappare chi siamo, col vedere chi siamo noi oggi, l'epoca in cui viviamo e da che parte più o meno siamo girati. È per questo che ringrazio Isabella e ringrazio tutti quelli che continuano a scrivere le loro storie, piccole o grandi che siano, e inviarle a Voi Siete Qui, @radio24.it. Grazie però anche a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea, che anche oggi hanno fatto sì che questo programma fosse qui e fosse in onda. La storia di oggi era la storia di Maria, Isabel, e parlava di desaparecidos. La storia di domani invece è la storia di Domenico e parla di banche. Io ero abitualmente a conoscenza del saldo del loro conto. Per certi versi era come se conoscessi il loro presente, ma il loro passato, con quelle entrate e quelle uscite, con quelle gioie e quei dolori, restava un mistero, fino al momento in cui loro me lo chiedevano.